Vendo tutto di Matteo Caccia. Tra meno di 2 settimane finisce questo programma. In 5 mesi ho venduto più di 100 oggetti, scritto decine di storie e ricavato quasi 5.000 euro. Ho conosciuto un bel po' di persone, spedito un sacco di pacchi e finalmente comincio a sentirmi più leggero. Quindi continuo, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Però io ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo una sedia da scrivania. Invece alla fine di Natale, Alessandro Ciato da Bordocampo. Alessandro, sapete qual è la cosa bella di lavorare mentre c'è la partita più importante del campionato mondiale con la tua squadra, l'Italia, che gioca? E che in questo momento non mi sta ascoltando nessuno. Sono troppo lontani. Io posso dire esattamente quello che voglio. Tanto nessuno scriverà al 349-238-6666. Nessuno chiamerà all'800-24-0024 perché c'è questa roba qui. A colpo di testa di Criscito, il pallone non passa. Quindi probabilmente nessuno all'ascolto interesserà che l'Italia è sullo 0-0, che siamo al 9 minuto e 30 secondi, che giochiamo con il tridente dell'Udinese, come ha detto prima Rudy, cioè Di Natale, Iaquinta e Pepe, anche se Iaquinta non è proprio del... è un ex, è sempre bianconero, e Gattuso al centro. Sono le 16:10, oggi è giovedì 24 giugno 2010, buongiorno a tutti. Oggi si parla proprio di questa roba qua, di com'è che si capita alla fine a fare un mestiere, a fare il mestiere che si fa. I calciatori, ad esempio. Cioè, questi qua, è facile finire a fare il calciatore, non perché tutti sono bravi a farlo, ma semplicemente perché tutti ci provano, giusto? Quindi se tu da bambino vai a giocare al pallone, su 100 bambini, 80 vanno a giocare al pallone, è chiaro che qualcuno prima o poi diventerà un calciatore, giusto? Iaquinta prova a prendere il tempo, promette fallo, perfetto. Calcio di punizione. È una palla in gol, però è solo annullata. Quindi è facile fare il calciatore perché semplicemente tutti ci provano, ma ci sono dei mestieri. Che com'è che vai a fare? Cioè, quali sono i motivi per cui finisci a fare quello che fai, no? Molto, molto spesso sono casuali. Avete presente tutti quegli attori che dico, io li adoro? Raul Bova, com'è che sei finito a fare l'attore? Ma guarda, veramente, io non volevo, eh. No, per caso. È che sono andato a fare un provino per accompagnare un amico. Niente, vai a sapere com'è, il mio amico non l'hanno preso, hanno preso me. Io vorrei conoscere tutti quanti gli amici degli attori che sono andati ai provini, non sono stati presi loro, hanno preso gli altri. Anzi, se ce n'è qualcuno, 800240024 oppure 349-238-6666. Casuale, com'è che sei finito a fare quella roba lì? Ma guarda, per caso. Invece ci sono certi che l'hanno ricercato e l'hanno voluto, giusto? Ad esempio, Gabriella scrive su Facebook: ho sempre voluto fare l'educatrice, sempre, anche quando non sapeva che era quello il titolo che occorreva. E sono arrivata ad iscrivermi lì grazie ad un tabellone letto male. Avevo passato lo scritto delle selezioni per fisioterapista, ma abbiamo ricordato male la data dell'orale. Abbiamo, credo lei, qualche amica. Mi sono presentata lì, la commissione non c'era più, ma lì ho visto un opuscolo che parlava del corso per educatori e le iscrizioni scadevano quella mattina. Faccio l'educatrice da 20 anni. Questo è il messaggio di Gabriella, 800240024 oppure 349-238-6666, perché poi ci sono motivi, perché uno finisce a fare un lavoro, perché magari c'è la famiglia, c'è l'azienda, è il caso di Marta che era stata qui ieri, c'è l'azienda e quindi semplicemente ti trovi incanalato in quella roba lì che ti hanno preparato da anni, i nonni, i genitori, e poi tocca a te. 800240024 349-238-6666. C'è un altro messaggio divertente, Marco scrive su Facebook: avevo una coppia di pappagallini in casa. E già qua uno dice: Bonini, stai attento qua, non guardare la partita. Qua non c'è nessuno che mi dà retta, ragazzi. Nessuno che mi ascolta a casa. La redazione sono tutti lì che guardano la partita. Oh, Marco scrive: avevo una coppia di pappagallini in casa. Che già uno dice: com'è che uno parte da qua e poi va a parlare di lavoro? State lì un attimo. Anzi, abbassa un attimo la base, che mi sa che c'è troppa gente distratta qua in giro. Quando hanno iniziato a riprodursi, ad un certo punto smettevano di alimentare i piccoli e li lasciavano morire di fame. Quindi ho iniziato ad alimentarli io e crescevano senza la paura dell'uomo. Inizialmente li regalavo, poi arrivavano da ovunque a chiedermi e lì ho pensato di farlo su larga scala. 800240024 349-238-6666. Come siete finiti a fare la cosa che fate? Me lo raccontate. Se non state guardando la partita, magari siete per strada e non riuscite a prendere nessun'altra radio, se non Radio 24, state lì. 800240024 oppure 349-238-6666. Parliamo della mia sedia da ufficio o da scrivania, che dir si voglia. Andate sul sito per vederla, oppure state lì, non guardatevi la partita e sentitevi la storia. La sedia da ufficio. Sedia da ufficio, modello snelle, dotata di rotelle, colore rosso. Materiale plastica propilenica, rotante e regolabile in altezza, resistente e facile da pulire. Dimensioni: larghezza 67 cm, profondità 67 cm, altezza massima 83 cm, larghezza sedile 46 cm, altezza massima sedile 51 cm. Perfetta per chi voglia una sedia dall'aria spensierata, ma utile al suo scopo. Valore commerciale 19,50 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Quando qualche anno fa mi sono accorto che come l'85% delle persone passavo gran parte del mio tempo seduto davanti ad un computer, ho deciso di cercarmi una sedia adatta. La volevo comoda, ma che non mi facesse diventare gobbo, ma anche che non fosse troppo brutta da vedere. Ho pensato che alla fine, se facessi il tassista, vorrei una macchina comoda e silenziosa. Se facessi il ciclista, vorrei una bici comoda e veloce, visto che sto seduto su una sedia e avevo bisogno di una veloce, silenziosa, ma soprattutto comoda. E lì mi sono messo a cercare una sedia da ufficio. Allora, io ogni volta che mi metto alla ricerca di qualcosa che uso tutti i giorni, come una lampada, un paio di scarpe, una sedia, ogni volta io mi stupisco di quante migliaia di lampade, scarpe o sedie siano prodotte in giro per il mondo. In modi diversi, in posti diversi, con tecniche diverse. Non so se lo sapete, ad esempio, ma nel mondo esistono 6.340 produttori di sedie per ufficio. Alcuni fanno le cose originali, altri le copiano, però di fatto ci sono 6.340 posti in cui delle persone passano la loro giornata a mettere insieme le sedie su cui noi appoggiamo le chiappe tutti i giorni per 8 ore al giorno, tanto non ascolta nessuno. Ciascuno ha un catalogo di circa 100-120 pagine in cui illustra i propri prodotti. Sono state scoperte delle cose sul modo in cui stiamo seduti e sui danni che quella posizione può causare, che solo al pensiero mi viene voglia di alzarmi in piedi in questo momento, immediatamente. Le ricerche, ad esempio, hanno scoperto che negli ultimi 20 anni il lavoro e i lavoratori sono completamente cambiati. Praticamente tutti usano i computer e ci sono meno occasioni per muoversi dalla scrivania. Lavorano molte più donne, generalmente più piccole, e ci sono molte più persone grosse e alte. I designer si sono resi conto che le sedie per ufficio non avevano mantenuto il passo con questi cambiamenti, che bisognava seguire un nuovo approccio nel disegno delle sedie da ufficio. Insomma, la mia ricerca è durata qualche giorno e alla fine una sedia l'ho trovata. Anzi, non una sedia, la sedia. Si chiama Aeron, è una sedia da ufficio prodotta da un certo Herman Miller. A guardarla è a metà tra un mostro marino e un'astronave. Ha vinto un sacco di premi, tra cui quello per l'eccellenza ergonomica. Quando è stata messa in vendita ne hanno parlato come della sedia che cambia la vita dell'ufficio. È stata testata per 24 ore continuative da persone superiori ai 150 kg, è garantita 12 anni ed è pure esposta nella collezione di design del MoMA di New York. Quando l'ho vista ho detto, eccola qua, è lei. Poi sono sceso in fondo alla pagina e ho letto il prezzo. 1431 euro. You know I love to make a connection, I love to conspire and steal, and you know I love to write good rock songs, honey, that's all good and real. I was born and I cry, I live the dirty life, and I died on fire and so slow, but I could get used to this. Il nome deriva da areazione, perché è stata la prima sedia da lavoro ad adottare un materiale traspirante, il pellicle. Insomma, bella era bella, ergonomica era ergonomica, però 1431 euro. Che poi io sta sedia non l'ho manco provata, quindi non è che possa dire qualcosa. Però mi sembra un tantivo eccessivo, no? Mi sono subito messo a cercarne altre, e mentre lo facevo, e mentre le trovavo, si è materializzata nella mia mente una testa, una domanda. Ma come ti viene in mente un giorno di alzarti e di dire «Mi metto a fare sedie da ufficio»? Perché poi in realtà questa domanda vale forse per molti lavori che producono prodotti specifici, no? Cioè, per farmi capire, non è difficile immaginare di fare il panettiere, di fare il portalettere, di fare il calciatore, tanto non ci ascolta nessuno che tutti stanno guardando la partita, di fare l'attore di fiction, perché sono cose che quotidianamente usi oppure hai sotto gli occhi, giusto? Ma non pensare di metterti a fare sedie per ufficio. Cioè, i casi sono due. O sei uno di quelli che vede business dappertutto, o altrimenti ci sei nato in mezzo alle sedie. I tuoi genitori hanno sempre fatto sedie per ufficio. Tu da quando hai 6 anni sai cos'è la seduta, conosci le regole dell'ergonomia. A 15 anni potresti parlare già ad un convegno di ortopedici. Ecco, io conosco persone che appartengono ad entrambe queste categorie. Quando ero piccolo, al mio paese c'era un'azienda che produceva tute da ginnastica, di quelle con il cappuccio, il tascone sulla pancia e gli elastici alle caviglie. In paese tutti le avevano. Sembravamo un esercito di teletubbi senza la tela in testa. Il figlio del proprietario dell'azienda aveva la mia età e oggi gestisce l'azienda di famiglia. Produce tute per la corsa, ma anche abbigliamento tecnico di ogni tipo. Però ho anche un amico che riesce a trasformare qualsiasi cosa in un modo per fare soldi. È un'arte e per certi versi gliela invidio. Lui si occupa per le compagnie aeree dei trasferimenti degli equipaggi da e per gli aeroporti, dove dormono, mangiano e si spostano piloti e assistenti di volo in tutto il mondo. Quando un mese fa c'è stato il blocco degli aeroporti per via del vulcano, ha iniziato a proporre trasferimenti via terra a tutti i passeggeri rimasti negli aeroporti. Li portava da Roma a Francoforte con un pullman preso a Cosenza, poi da Francoforte tornava a Roma con il pullman carico di chi doveva tornare in Italia. Ha trovato alberghi per chiunque, in qualunque luogo. La sua società in quelle 2 settimane ha fatto più soldi che in un anno di lavoro. Non vi stupirà sapere che è stato lui a parlarmi della sedia da ufficio migliore del mondo, dicendomi tra l'altro che aveva in mente un progetto per farne fare una simile, ma a un prezzo ridotto. Dopo l'ultima volta che ho parlato di soldi con lui, mi sono messo il cuore in pace e ho capito che dai soldi e dalle sedie avveniristiche è meglio che mi tenga lontano. E quindi ho comprato questa sedia per ufficio, che costa 20 euro, ma che è bella e fa il suo mestiere. Sostiene il mio peso. Eppure, come è sempre successo fino ad oggi, anche lei è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 19,50 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Se qualcuno sta ascoltando e non sta guardando la partita, chiamatemi e raccontatemi come siete arrivati a fare il lavoro che fate. 800 24 0024. Notizie arrivano al 349-238-6666. Io ti ascolto come sempre in fabbrica a Cuneo, 30 gradi. Enrico, sono qui e ti ascolto. Ancora, dai, che non sei da solo. Ho visto le foto di Riva del Garda. Vabbè. Impossibile abbandonare, vendo tutto. Molto meglio dell'Italia calcistica, eccetera, eccetera, eccetera. Tranquillo, qualcuno ti ascolta, Nicoletta. Io ci sono, ciao Carlo. Hai avuto più notizie della cassiera dell'S Lunga? Ogni tanto qualcuno tira fuori cose così a caso. 800 24 0024, perché vorrei capire come siete finiti a fare quello che fate. Lucia, faccio l'ingegnere perché volevo fare una cosa difficile, solo che ho scoperto che non mi piace. Andiamo però a Svizzera. In Svizzera da Raul. Pronto Raul? Sì, ciao, pronto, ciao. Buongiorno. Ma tu sei in Svizzera perché sei frontaliere, sì. Ci lavori oppure ci vivi in Svizzera? Guarda, è una bella domanda. È una bella domanda. Ci vivo. Ok. Al momento di lavoro c'è ben poco, è un altro secondo periodo di crisi nella mia vita. Che cosa fai e come sei finito a farlo, Raul? Disegno scarpe. Disegni scarpe. Sono un architetto. Come ci si arriva? E poi ho studiato design. Sono curioso di sapere la sedia, chi l'ha disegnato, quella sedia tua che parlavi. Guarda, vai a vedere sul sito perché non lo saprei. Herman Miller. Ah, Herman Miller. Beh, scusami, se ho detto. Senti, Raul, che cosa farai il prossimo lavoro? Ecco, non lo so, perché continuo a girare intorno alla scarpa perché mi sono appassionato. Scusami Raul, mi spiace interromperti, ma c'è il gol della Slovacchia in questo momento, cioè ha segnato la Slovacchia, per cui direi che a questo punto io prendo un'altra telefonata, così, solo perché ho la sensazione che mi porti un po' sfiga. Ciao Raul, grazie. Andiamo, ha messo giù lui direttamente. Andiamo a Salerno da Alfonso. Pronto Alfonso? Ciao Matteo, buonasera. Buonasera, come stai? Bene, tu non sei da solo, sto vedendo la partita, però seguo la trasmissione con le cuffiette. Quindi hai visto anche tu, ma proprio un erroraccio, una roba orribile. Sì, come al solito si inizia a perdere. Vabbè, comunque, andiamo avanti, scusami perché altrimenti qua chiudiamo e sforiamo alla grande. Tu cosa fai e come sei arrivato a farlo? Allora, io vengo dall'Argentina, sì. Sono 13 anni che sono in Italia, sono arrivato come corrispondente all'epoca, bla bla bla bla. Sì. Poi, però, avevo... io... da piccolo volevo diventare speaker. Sì. Amo la radio tuttora, però purtroppo non riuscivo a fare questa cosa. Allora ho fatto l'università. Poi un amico mi ha detto: ma perché non andiamo a vedere? Perché là ci vuole la laurea per diventare speaker. Sì. Sono andato lì con lui a accompagnarlo, come dicevi tu, a me hanno preso e a lui no. Benissimo. vorrei conoscere poi il tuo amico, come l'amico degli attori. Grazie mille Alfonso e buona giornata, buona serata. Grazie, volevo salutare tutti i ragazzi, colleghi del Radio 24 che sono grandi. Sono magnifici, grazie mille, lo farò io per te. Andiamo a Varese da Chiara. Pronto Chiara? Pronto? Ciao Chiara, sei tu. Andiamo subito al dunque, che cosa fai e come sei finita a farlo? Faccio il pasticcera e ho cominciato a fare la prima torta che avevo 9 anni, ero golosa, in casa sì. Nessuno le faceva sì. E naturalmente mi sono divertito un mondo, poi dopo avevo un ristorante peraltro, quindi potevo sfogarmi, sì. I clienti ogni tanto me le chiedevano, poi dopo mi sono innamorata di un uomo che era goloso e questo mi ha molto... E tu ora fai la pasticcera? Sì. Come si chiama la tua pasticceria? No, è pubblicità, io ti ho chiamato perché è il primo giorno di pubblicità. Che meraviglia l'Italia, è speriamo il primo giorno che di... vadano avanti così, che vincano così almeno. Guarda, stanno perdendo in questo momento. Lo so, perfetto. Perfetto. Speriamo che non segnino adesso, sennò anch'io porto sfiga. Chiara, grazie mille. Prima. Grazie mille, buona giornata. Sì, ciao, tanto non ascolta nessuno. La partita prosegue, è arrivato però un messaggio che dice: io vi ascolto, sono di origine slovacca, ho sposato un italiano, oggi abbiamo derby in casa, di professione faccio la magliaia. Pronto Manuela? Buongiorno Matteo, buongiorno. Come sta andando? Come sta andando in casa? Beh, penso che mio papà sicuramente è entusiasta estremamente, io però sono al lavoro quindi non ti posso far sentire i suoi urli, gol e la sua gioia. Immagino, comunque. Ma perché tuo papà vive in Italia, no? Sì, noi viviamo tutti quanti in Italia. Quando è che siete arrivati qui? Guardi, prima di tutto sono arrivata io, poi è arrivata mia sorella, alla fine ha detto: vabbè, già che siamo tutti qua, venite anche voi, così vedete dei nipotini. E tu come sei finita a fare la magliaia, Manuela? Per un'immensa passione, un hobby che ho trasformato al lavoro e così sono felice e contenta del mio lavoro. Manuela, ti ringrazio, state vincendo 1-0, speriamo non finisca così. Ciao, sì, alla prossima. Ciao Manuela, parte. Grazie. Sono le 16:27, io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa trasmissione di oggi. Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. La sedia è sul sito, andate a vederla. Domani vendo chiaramente la scrivania. Voi, se potete, alzatevi da quella sedia, che alla fine l'ufficio è solo l'ufficio. Love, wherever you go.